la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Come tutti i grandi ritrattisti, Pericoli punta all'anima, sia quando c'è, sia quando non c'è. E spesso, col ritrarre un volto, di fatto ritrae un pensiero, una visione del mondo, uno stile poetico o narrativo. Umberto Eco, 1990. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. Io uso una tecnica molto tradizionale che è la pittura d'olio. La uso con molto spessore e questo mi dà la possibilità di creare non solo delle velature, ma creare proprio quasi delle stratificazioni sotto la crosta, la prima crosta del quadro. In fondo un quadro è come un paesaggio vero, contiene l'ultima pelle, in qualche modo mostra quale la precedente e la precedente ancora. Ecco, questo mi piace un po' rivelare allo stesso tempo la storia del paesaggio e anche un po' la storia del percorso pittorico di ogni quadro. Questa è la storia di un uomo, un pittore e della sua terra. La prima volta, in questo caso, riguarda proprio il legame tra le colline dell'Ascolano in cui cresce Tullio Pericoli e la sua passione per la pittura e il ritratto. Dopo una formazione importante, Pericoli, ancora studente di giurisprudenza nell'Ascolano, decide di mandare a Cesare Zavattini un autoritratto. Zavattini è un grande sceneggiatore, un grande giornalista e, come spesso accade, ai talenti come il suo, è un uomo capace di individuare anche negli altri il talento. Non è infatti un caso che a soli 3 giorni dalla lettera col ritratto di Pericoli, Zavattini risponderà così. Pericoli si mette al lavoro, produce un autoritratto, lo invia a Zavattini accompagnato da una lettera e dopo 3 giorni ha già in mano la risposta. Caro Pericoli, il disegno mi è piaciuto tanto. Cosa stai a perdere tempo con legge? Meglio un avvocato in meno e un artista in più, gli dice. Ma lascia stare Roma, è a Milano che devi andare. Lì ci sono i giornali, le case editrici, la pubblicità. La tua città è Milano. A raccontare questo aneddoto è Tony Servillo, un grande amico di Pericoli. Tullio Pericoli, un caro amico ormai da diversi anni, con cui ho un appuntamento fisso tutte le volte che ho l'opportunità di venire a recitare a Milano, perché vado nel suo studio, che è molto affascinante, dove si resta intimiditi vedendo questi grandi volti che ti osservano, no? I suoi famosi ritratti di Beckett, ma anche Proust, Woody Allen, Kafka. Milano adotta dunque il giovane illustratore. Sono gli anni del boom economico e Milano è il centro di tutto in Italia, come raccontò meravigliosamente Luciano Mazzarella per la RAI, qui in compagnia di Luciano Bianciardi, anno 1963. Facciamoci raccontare Milano da chi vive a Milano, da certi amici, da certi conoscenti, da chi è venuto a Milano per cercare il successo, la fortuna. Luciano Bianciardi. Bianciardi mi ha dato appuntamento a Brera. Vedi Mazzarella, io ho voluto darti appuntamento qua perché Brera è una specie di approdo inevitabile. Quando uno scrittore, un giornalista, un artista o un fotografo arriva da fuori a Milano, è inevitabile che scenda a Brera. Se tu avessi deciso di fare il tuo mestiere a Milano anziché a Roma, stai pur certo che saresti qua. La prima volta di Tullio Pericoli ha sicuramente inizio a Milano, ma è nell'Ascolano, tra le colline dolci di Colle del Tronto, che va cercato l'inizio, quello vero. Si può dire che questa prima volta coincida con l'amore di un ragazzino per la sua terra e per la pittura, come dirà lui stesso. Noi viviamo portando questa ricchezza dentro di noi, queste immagini continuamente, delle quali forse a volte sappiamo poco, però continuamente credo che producano delle sensazioni e delle emozioni dentro di noi. La pittura che cosa può fare? Può far emergere queste immagini, cioè metterle in evidenza, mostrarle anche a chi ne è proprietario e far vedere come sono fatte, ma non tanto come sono fatte superficialmente, ma come sono fatte, come sono state fatte nel corso dei tempi, dei secoli, dei millenni, e quindi quanto il paesaggio, ogni paesaggio contiene una sua storia interiore. Non è solo l'uomo a possedere interiormente il paesaggio, ma è il paesaggio stesso che mantiene dentro di sé la propria storia. E allora la pittura, almeno nella mia pittura, cerca un po' di rappresentare il paesaggio, ma nello stesso tempo mostrare anche cosa c'è dietro la prima coltre del paesaggio, che cosa nasconde, quale storia millenaria lo ha fatto così. E non è solo una storia millenaria, perché poi ci sono le storie più vicine dell'intervento sul paesaggio, che può essere a volte molto bello e a volte veramente disastroso. Nella mia io sono marchigiano e questi paesaggi, diciamo, parlano un po' la lingua marchigiana. Ecco, l'intervento dell'uomo, l'intervento agricolo, quindi l'intervento manufatto con le mani, con l'azione diretta degli uomini, a volte ha prodotto delle forme nuove in questo paesaggio e a volte molto affascinanti e molto attraenti. Purtroppo ci sono anche interventi umani non altrettanto armonizzati con la forma del paesaggio. La prima volta. Tullio Pericoli, lei è un artista anche molto schivo. Prima di fare questa intervista ci siamo sentiti, mi ha ripetuto più volte che non avrebbe avuto piacere usare il telefono portatile. Tanti segni che in qualche modo raccontano un uomo che ama dipingere, però non ama appunto questa comunicazione così rapida, veloce, invadente. Questo secondo lei può essere letto anche come il segno di una persona che, rispettando questi tempi, rispetta un po' il tempo della terra? Sì, io rispetto, sì, forse sì, non ci ho mai pensato, per la verità, mi ci fa pensare lei. Io rispetto forse i miei tempi, che sono i tempi della mia crescita, il tempo che mi ci vuole per meditare, per produrre, per inventare, e poi un po' anche il tempo del necessario, come dire, che è legato al mio lavoro, il tempo della pittura. Ecco, la pittura è fatta di gesti, di colori che si appoggiano su una superficie, che hanno bisogno anche di asciugare, di seccare, e quindi piano piano sulla tela si crea una superficie che somiglia un po' a quella della terra, perché è una superficie che si, come dire, che si produce e si crea man mano che si aggiungono delle cose l'una sull'altra, e quindi come si crea una sorta di strato che si potrebbe poi, come dire, leggere geologicamente, cioè la pittura di superficie in qualche modo rivela anche la pittura che c'è sotto. Quindi i miei tempi sono legati un po', anche se in maniera un po' anacronistica, al tempo della pittura. Tullio Pericoli è un pittore famoso in tutto il mondo, soprattutto per i suoi ritratti. Ciò nonostante vive a Milano, al riparo dalla fama, fa una vita parca, schiva. I suoi quadri, esposti in tutto il mondo, raccontano spazi interiori immensi, occupati da uomini sempre impegnati nell'affrontare qualche avventura. Come i personaggi ritratti per le riviste Linus, L'Espresso, Pericoli è l'illustratore di Viaggio nel paesaggio, ma è anche il curatore delle strisce di Tutti da Fulvio il sabato sera di La Repubblica. Una striscia recensita così da Oreste Del Buono. Ogni epoca ha la propria Madame Verturin, e Tullio Pericoli, disegni, ed Emanuele Pirella, testi, ci hanno gratificato della nostra Madame nella persona di Fulvia, che inesorabilmente ogni sabato sera raduna tutti quelli che, quanto a intellettualità, contano qualcosa e credono di contare di più. Quelli che non contano nulla ma si comportano come se contassero. Quelli che forse hanno contato ma non contano da un pezzo e cominciano addirittura a sospettare di non aver contato mai. La riunione squisita, in apparente sfida ai frivoli programmi dei gran contenitori televisivi, ma in sostanziale coincidenza d'intenti, cachinni e disvoleri, è il pretesto per la rassegna della fiera delle vanità delle idee ricevute da diffondere ulteriormente. Provoca il lettore al riso di una illusoria superiorità e al disagio di una possibile chiamata di correo meritata e meritabile. Un caricaturista di splendida ferocia e delicato pittore, un romanziere di accanito risentimento e micidiale stratega di spericolate campagne pubblicitarie ci raccontano attraverso Fulvia e gli ospiti del suo salotto le mediocri follie, le paradossali incertezze, i futili dilemmi di quello che l'indimenticabile ministro degli interni Scelba definì, ne varietur, il culturame. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là. Le vent nous portera. La prima volta in cui la vita di Tullio Pericoli inizia a muovere i suoi primi passi a Milano come pittore, ritrattista e illustratore è lontana ormai. Pericoli oggi è famoso, eppure conserva ancora quella leggerezza e quel rigore che hanno certi ragazzi di talento a inizio carriera, come racconterà una sua cara amica, la scrittrice Silvia Ballestra. Ma la caratteristica del tratto di Tullio Pericoli è l'eleganza e la leggerezza, in qualche modo anche insomma l'ariosità, cose che ci accomunano alla fine, appunto, come bilancio del lavoro, probabilmente è una certa attitudine a difendere con grande rigore, io userei pure la parola tigna, però il proprio ruolo. Ci siamo accorti che Tullio Pericoli, pur con tutto il garbo, no, che lo contraddistingue, in realtà ha detto molte volte di no quando le cose non gli andavano a genio, ha sperimentato molto nel suo lavoro e questo insomma mi sembra sempre molto produttivo e interessante. The boy with the thorn in his side, behind the hatred there lies a murderous desire. A distanza di oltre 50 anni dal suo primo giorno, dalla sua prima volta a Milano, Tullio Pericoli ha fatto tanta, tantissima strada. Ha avuto numerosi riconoscimenti. Eppure, dalla sua terra, da quelle colline dell'Ascolano, Pericoli non si è mai realmente spostato, perché è lì che torna. È per quei posti che combatte ancora oggi. Ho visto la collina del mio paese di nascita, che è Colle del Tronto, sul lato sinistro, profondamente deturpata da una fascia di pannelli che come dire, adagia sulla collina una specie di corazza ferrea, almeno vedendola dal basso, dalla valle, sembra una corazza di un guerriero. Ecco, questo è un po'... Adesso che non siamo abituati poi a questo tipo di intervento sulle colline, ci siamo lentamente, non dico abituati, ma tollerato le nuove costruzioni, le case, i condomini, a questa nuova immagine non siamo ancora per niente abituati. E forse ci abitueremo, forse sì, forse no, io non so se cosa sperare, se sperare di accettarle in futuro visivamente oppure no, questo non lo so dire. Adesso è un po' impressionante, è impressionante anche il fatto di sapere che sotto questa coltre metallica o di specchi la terra poi muore. Mi hanno detto, so che dopo 20 anni circa la terra o si rimuovono i pannelli o la terra sottostante sarà completamente arida e morta. Ecco, questo è un po' impressionante, devo dire. E questo le fa impressione perché il suo, che poi è quello che anche ha raccontato nei suoi lavori, nelle sue tele, nei suoi disegni, il suo concetto di terra è invece, insomma, all'opposto. Sì, è vitale, è di qualcosa di vivo, è di qualcosa che appunto racconta la nostra storia. A me è capitato di dire che i lineamenti di un volto, i segni sedimentati su un volto raccontano la storia di un individuo, e tutti i segni sedimentati sul suolo, sulla superficie di un paesaggio, raccontano la storia di una collettività. Quindi il paesaggio in cui siamo nati e in cui viviamo è qualcosa che racconta noi stessi e in qualche modo farà raccontare ai nostri posteri quello che siamo stati, quello che abbiamo prodotto, quello che abbiamo fatto, come siamo vissuti. Ecco, quindi questo, come dire, questo anello di congiunzione tra una catena che parte da lontanissimo nel passato e che continua verso il futuro, ci dovrebbe far sentire una forte responsabilità nei confronti di quelli che ci seguiranno. E quindi una forte responsabilità nella maniera in cui trattiamo il suolo dove viviamo. Però sta usando il condizionale, perché siamo tutti consapevoli del fatto che fino adesso questa è una promessa disattesa. Infatti questo è vero, ma insomma, adesso io non voglio essere apocalittico, ma insomma, che credo che noi stiamo in gran parte distruggendo il pianeta in cui siamo nati. E siccome facciamo dei calcoli molto, come dire, poco lungimiranti e poco e temporalmente molto brevi, perché consideriamo le nostre vite, consideriamo al massimo la vita dei nostri figli, politicamente poi non ne parliamo, perché politicamente i calcoli si fanno in base a una legislatura o poco più. E non ci rendiamo conto che stiamo un po' bruciando la terra dove siamo nati e dove viviamo. La prima volta termina qui. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo che potete riascoltarci andando sul nostro sito internet e cercando la pagina della prima volta. Il nostro indirizzo è laprimavolta@radio24.it. Ci risentiamo domenica prossima, sempre dopo il giornale radio delle 13. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.